min ayyi shay'in ene ko hondun ko immorbe e hondun e hunde taho khalagahu joomi makko tagimo dun yo yi'iti yo wattani yila ondara ko e hondun Allah on tagimo.